Su studenti.it lavora un moderatore volontario che chiede ai giovani di tranquillizzarlo. Lui vede disastri sui media e ha paura, ed io, sua madre, che tedia. Oggi chiede perché mai Dio è arrabbiato con noi. Io posto un messaggino, ma la mattina dopo non c'è più. Il contenuto era un bijou. Il contenuto era un bijou. Ve lo passo adesso. Dio è arrabbiato con noi perché non accetta i propri desideri. Dio è arrabbiato con noi perché noi glieli ricordiamo. Dio è arrabbiato con noi perché ha dovuto sposarsi e riprodursi. Dio è arrabbiato con noi perché siamo venuti al mondo gratis. Dio è arrabbiato con noi perché, nonostante il suo spalancato masochismo, non accetta la sua morte. Non bestemmiate più questo povero Dio. Non bestemmiate più questo povero Dio. Non bestemmiate più questo povero Dio. Non bestemmiamo più questo povero Dio.